Saremmo giudicati da Dio che ci ha messo nelle mani delle stupende possibilità. Non occorre adesso che tutti abbiamo dei diplomi, delle patenti, chissà, no. Ciascuno goda di quello che ha ricevuto e ne ringrazi Dio, ne goda, ne ringrazi e ne dia i frutti. Abbiamo visto ieri che fra questa folla di santi e di sante c'è anche Domenico Savio, un ragazzo di 15 anni, non compiuti quando muore. E c'è il suo educatore San Giovanni Bosco che invece va avanti e muore vecchio. I piccoli di Fatima, Giacinta e Francesco Marto, sono morti giovanissimi. Non hanno neanche toccato l'adolescenza. E presto li venereremo beati sugli altari. Pier Giorgio Frassati, giovane di Azione Cattolica, ecco, beato, non ha toccato i 30 anni. Sappiamo che il Signore giudica a seconda dei talenti che ha dato a un individuo. Tu avevi l'intelligenza per fare le scuole elementari e nulla di più. Sarai giudicato dei frutti riportati in quei 5 anni di scuole elementari. Tu hai avuto la vita più lunga e hai potuto fare anche le scuole medie, un'intelligenza capace per realizzare un diploma di terza media. E il Signore Dio non ti chiederà se hai fatto una laurea in medicina o in lingue o in scienze politiche, economiche, che so io. A ciascuno Dio chiede conto di quello che gli ha dato. Se ti ha dato un talento, ti chiederà conto di un talento. Talento vuol dire una certa somma, così simbolica, ecco, emblematica. A chi dà 2 talenti, Dio non chiede conto di 2 e mezzo, di 2. A chi Dio ha dato 3 talenti, chiederà conto di 3 talenti. E questo ci dà un senso proprio di sollievo, di respiro, perché leggendo le biografie, le storie dei santi, ed è delizioso, è molto istruttivo leggere le biografie dei santi. È una scienza, si chiama agiografia, agios, che vuol dire studio dei santi. Leggendo queste bellissime avventure dei santi, a volte potremmo chiudere il libro e dire: ah, non sono cose fatte per me. Non sono cose fatte per me. Come? Il Dio, se ti ha chiamato a questo mondo, ti ha dato la grazia di ricevere il battesimo, la cresima, un matrimonio cristiano. Ti ha dato tutto questo perché tu renda il massimo. A volte con un minimo si può rendere il massimo. Dio chiede il massimo di quel minimo. Come vi ho detto, Luigi Gonzaga muore giovanissimo, a 24 anni. Mariettina Goretti a 13 anni. L'ultimo servo di Dio di cui ho scritto la vita si chiama Andrea Borello, morto a 32 anni. Prima fa il contadino, poi fa il cartierista, lavora in una cartiera, e poi il calzolaio e muore a 32 anni. Si dice che ha avuto un minimo di salute, un minimo di cultura e anche una vita breve. Potremmo dire un minimo. Ah, ma da questo minimo Andrea Borello ha ricavato il massimo. È un fatto che è possibile, nel campo dello spirito è possibile che con un minimo si possa realizzare un massimo. Martino da Porres è un mulatto senza cultura, è santo Martino, patrono del Perù. Un minimo di cultura, un minimo di capacità, ma col massimo della resa. Ecco chi sono i santi. E questo minimo l'abbiamo tutti, dai, l'abbiamo tutti. Ma che dobbiamo dire che noi qui presenti siamo persone gratificate dalla provvidenza di Dio, di tante fortune spirituali, anche di fortune economiche, dai, anche di fortune in senso corporale, siete tutta gente ben messa, gente tarchiata, gente che gode anche discreta salute, gente che si è guadagnato il pane, che non ha mangiato il pane a spalle degli altri, gente che sa fare, che ha la famiglia qui a tendere, gente che porta avanti un'azienda, un'impresa, un impiego. Sapete occupare bene il vostro tempo? Amici, ne avete abbastanza per diventare grandi santi, per ottenere il massimo di resa da questa vostra vita, dal patrimonio che Dio ha messo su per ciascuno di voi con questi talenti che Dio vi ha dato, non uno di più, con quello che avete nelle tasche. Voi sapete che con un fazzoletto di terra chi vuole può costruirvi sopra un grattacielo. Un fazzoletto di terra. Pensate voi, 10x10, su una base così piccola, un fazzoletto di terra si innalza un grattacielo. La santità è un grattacielo. Andiamo proprio a raggiungere il cielo. I santi sono persone che arrivano magnificamente alla loro seconda casa e là vi si trovano magnificamente, pur essendo partiti anche loro da un fazzoletto di terra. Avete visto qualche grattacielo? Pochi metri quadri, un grattacielo. È un simbolo questo, confortante. Ciascuno di voi è questo fazzoletto di terra. Chi avrà un metro di più, chi avrà un metro di meno, lasciate fare che il geometra è con la G più maiuscola, geometra, è l'architetto del cielo e della terra. È Dio che conta i vostri giorni, che ha contato le vostre capacità intellettive, volitive, affettive e ha stabilito le vostre realizzazioni. Prima che sorgesse il sole sulla vostra vita, la provvidenza divina ha stabilito tutto il tessuto, il tappeto della vostra esistenza, fino ai particolari, su questo fazzoletto di terra più o meno largo, più o meno grande. Voi siete chiamati, siamo chiamati tutti a costruire un destino eterno. La santità.